Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno oggi soprattutto agli amanti dell'oca, perché oggi parleremo di questo animale che è amato da molti, da cui si ricavano dei salumi davvero molto molto importanti e devo dire squisiti, ma soprattutto anche l'oca viene anche cucinata, anche nelle ricette è molto ma molto prelibata. Quindi andremo a fare un giro dell'Italia perché scopriremo dei luoghi importanti dove o vengono allevati le oche o vengono prodotti dei salumi a base di oca, oppure dove viene cucinata l'oca e dove ci sono delle serate molto particolari, in particolar modo in questo periodo. Non solo, ma scopriremo anche che ci sono delle fiere e delle feste dell'oca proprio nel mese di novembre. Bene, cominciamo questo giro dell'oca da uno chef che anni fa ha dedicato un libro all'oca, addirittura 34 ricette, ed è Germano Pontoni. Buongiorno Germano. Buongiorno dottor Davide. Allora, come andiamo con l'oca? Ma diciamo che l'oca è sempre un animale che piace, le sue carni a seconda delle stagioni, ma in particolare anche dei momenti più o meno economici, è sempre un prodotto che va. Ecco, lei ha parlato di momenti economici, ma l'oca è un animale che costa poco? Diciamo che fino adesso si è tenuto in considerazione in particolare il fegato grasso e il petto dell'oca, che era praticamente la cottura veloce, e quindi queste erano le carni che venivano per lo più richieste. Oggi c'è un grande orientamento verso il quinto quarto, anche se il foie gras è il quinto quarto, ma poi anche la coscia o le carni che praticamente hanno bisogno di lunga cottura. Ciò che un tempo, fino a pochi anni fa, insomma, gran parte era sempre rivolto alla cottura veloce, tipo il petto d'oca, che veniva servito un po' rosato, il foie gras scottato velocemente, servito con l'uva o con l'aceto balsamico o con degli ottimi vini liquorosi. Oggi si tende proprio alle cotture lunghe a bassa temperatura, perché c'è una grossa richiesta del tradizionale del territorio. Ecco, una bell'oca arrosto al forno, intera. Lei cosa ne pensa, Pontoni? Diciamo che oggi come oggi, che quest'anno penso che molte famiglie si riuniranno proprio in famiglia, non più nei ristoranti, proprio la carne d'oca, dove c'è la produzione, o meglio, dove c'è stato un allevamento non troppo intensivo, sia la carne più adatta. Per fare una ricetta di questo genere, indubbiamente ci vuole del tempo, ma ci vuole anche un po' di cura. Non eccessivamente spezie, perché le cose più semplici, che può essere un rametto di rosmarino, e perché no, magari una mela dentro nella pancia e un pezzo di pane perché assorba il parte del grasso, ma cucinata proprio semplicemente un dito d'acqua dentro a una capiente casseruola con coperchio, e praticamente lasciarla sudare fino a che praticamente la parte della pelle venga a sciogliersi nell'acqua, e poi togliere questa parte acquosa e grassa, che può essere asciugata per fare poi con questo grasso delle ottime patatine o anche altre cose, e questa carne dopo 3 ore e mezzo, 4 ore di cottura a temperatura bassa coperta può essere veramente il piatto di Natale del 2009. Bene, grazie Germano. Io voglio ricordare di Germano Pontoni, appunto, libro L'Oca, pubblicato dalla Biblioteca Culinaria. Chi vuol sapere tutto sull'oca, questo è il libro giusto, perché ci sono le ricette, c'è la storia, c'è il folklore e ci sono anche gli abbinamenti di vino. Ma continuiamo il nostro viaggio e ora andiamo a Siena, andiamo all'Osteria delle Logge. Perché questo? Dice, Siena cosa c'entra con l'oca? Beh, forse c'entra questo ristorante che molto intelligentemente organizza delle serate a base di oca, magari andando controcorrente, perché no, è giusto così andare a riscoprire dei vecchi prodotti, oppure anche delle vecchie ricette, abbinate a dei vini particolari di un signore che si chiama Giorgio Grai, che io chiamo sempre il maestro, perché ritengo che sia il più grande naso italiano del mondo del vino. Buongiorno Mirko Vigni. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, cosa succede all'Osteria Le Logge con l'oca? All'Osteria Le Logge ogni tanto facciamo qualche pazzia, e anche in questo caso faremo una pazzia gastronomica con Gioacchino e Giorgio Grai. Faremo una bella serata sull'oca il 25 novembre, in cui proveremo, diciamo, a fare una cena a 360 gradi, dall'antipasto al dolce, tutto a base di oca. Mi dica subito il dolce, perché sono molto curioso. Sarà fatto un dolce nel foie gras. dolce di foie gras con del pane speziato, con una salsa particolare con del bergamotto, una cosa un po' folle, diciamo. Abbineremo dei piatti più classici, tipo l'oca al forno con le patate cotte nel suo grasso, molto semplice, del collo ripieno, dei tortelli farciti di frattaglie, delle cose più classiche fino ad arrivare a questo dolce un po' più... particolare, estroso. Sì. Senta, ma di chi è stata l'idea? Ma l'idea è nata, diciamo, dall'amicizia con Gioacchino. Lui piaceva fare una cosa qua a Siena. Noi uguale siamo tentati da queste situazioni che vengono fuori con queste persone che hanno, diciamo, capacità, possibilità e soprattutto qualità di prodotti. E perché no? Detto, facciamo una bella serata a Siena, facciamo godere i nostri clienti e commensali di una serata così bella. Insomma. Ecco, a Siena, cioè lei sicuramente avrà già testato il polso, come si dice, della situazione. Incontra questa serata, cioè l'Oca attrae ancora? Beh sì, l'Oca attrae ancora senza ombra di dubbio, anche perché non è un piatto classico nostro, per cui è un piatto Punto, questo. Troviamo molto molto poco nei menù e per cui c'è anche la curiosità di scoprirla, soprattutto quando c'è una qualità di materia prima come quella che può dare Gioacchino. Insomma. Ecco, questo è il punto che lei ha toccato, ha detto non è sovente trovare l'Oca, anzi è rarissimo, noi andremo e lo dimostreremo poi alla ricerca in Italia di una serie di ristoranti, ma non sono molti i ristoranti che ancora presentano l'Oca e io credo invece che sia giunto il momento di riscoprire questi animali molto particolari che per anni sono stati abbandonati, perché un tempo l'Oca invece appariva di sovente nelle tavole degli italiani, specialmente in campagna, specialmente diciamo quelli ristoranti fuori porta, quelli in Lomellina o in altre aree molto vocate all'Oca, ma poi andremo a scoprire in questi posti cosa succede oggi. Un'ultima cosa le volevo chiedere, quindi quante portate sono di Oca? Saranno 5 portate di Oca, tra cui faremo una cosa pazza sull'antipasto delle zampe fritte, le zampe che saranno rese, diciamo, in polvere, poi ricomposte dalla chiara dell'uovo e poi fritte, accanto al del collo ripieno e al classico salame di mortara, salame d'oca di mortara. Senta Vigni, ma il suo cuoco è ben contento di fare questa operazione? Beh, tantissimo, perché insomma, sai, quando un grande chef gli dà una grande materia prima e gli dà da divertirsi nel poterla elaborare in vari modi, nel poter testare diciamo varie preparazioni con dei piatti differenti, che di solito non lavora, perché qui magari lavoriamo più altre cose, noi facciamo le cinte da noi, facciamo tanti altri tipi di toscane, insomma, senesi. Materia prima, sì, e l'Oca non è un piatto classico. Chiantigiano. Lui è molto interessato. Senta, scommetto che sul dessert andrà il Moscato Rosa di Giorgio Grai. Beh sì. E gli altri vini quali saranno? Beh guardi, dobbiamo ancora con Giorgio trovare un, perché sai, Giorgio è molto puntiglioso. Sarà una gara dura. È molto particolare, per cui dovremmo trovare a ogni cosa un suo abbinamento molto particolare. Bene. E io diciamo ho provato, sto tentando anche di cercare di fargli portare qualcosa di un po' datato, per berci soprattutto sui primi, sulle cose, anche perché ha delle cose fantastiche. Ecco, guardi, le do un consiglio, sui bianchi chieda delle bottiglie degli anni 70-80 perché troverà delle grandissime cose. Grazie a Mirko Vigni dell'Osteria Le Logge di Siena, non potevamo non andare in un posto che è consacrato l'Oca, Mortara in provincia di Pavia, dove... tra gli altri c'è un personaggio che è quello, insomma, che negli anni ha portato avanti sempre questo discorso di produzione sia dell'oca sia dei salumi a base di oca. Siamo in una zona, diciamolo subito, che è la Lomellina, quindi una zona di cultura ebraica dove è nato, diciamo, sono nati questi insegnamenti per questi prodotti. Buongiorno Gioacchino Palestro. Buongiorno a lei. La corte dell'oca, io lo chiamo Gioacchino Galestro, domatore d'oca, ma lui me lo permette perché scherza sempre. Gioacchino, ma è tornata di moda l'oca? Tu che da tanti anni porti avanti questo discorso, che succede? Moltissimo. Ecco, ma i salumi, poi parleremo dei salumi, o anche l'oca in quanto così animale da lavorare a tavola, quindi da offrire dei piatti? Ma soprattutto questo, Davide, l'oca sta ritornando con grande gioia a tavola. Sulla tavola. Ecco, ti fermo un secondo perché sentiamo su questo, poi ti riprendo, Pino Masuelli della trattoria Masuelli San Marco di Milano, conosciutissima. Buongiorno Masuelli. Buongiorno dottor Davide, buongiorno. Allora, io so che lei ha in carta un piatto particolare d'oca, ce lo vuole raccontare? Due volte a settimana mettiamo in carta, il martedì e il sabato. Ecco, qual è questo piatto? Ma il piatto, allora, come qualità è la... la bianca romagnola che poi viene allevata in, in lomellina. E noi la chiamiamo in bottaggio, ma è in cassola, poche parole, perché poi noi a giovedì facciamo la cassola di maiale. Però io la chiamo in bottaggio, ma ha lo stesso procedimento che la cassola di maiale. Sono che consiglierebbe a 6 persone sui 2,5 kg, non di più, queste oche. Poi, ecco, Masuelli, è l'antico, sì, è l'antico ragò quello di cui sta parlando lei? Sì, certo, certo. Che certo, è un piatto certo, ebraico questo? Che perché se dico ragò, tutti dicono, ma cos'è? Allora mi tocca stare lì a spiegargliela così. Invece in bottaggio è molto più semplice. Cioè, poi io dico, guardi, è un po' come la cassola che fa Masuelli a giovedì di maiale. Ecco, rimanga con noi Masuelli, torniamo a Mortara da Gioacchino Palestro. Gioacchino, allora passiamo, abbiamo sentito che tu hai ragione, quindi l'oca sta tornando anche nelle tavole, sì, e poi continueremo su questo giro. Ma i salumi, ecco, la tua specialità. Ma i salumi anche loro stanno sempre trionfando. Maggiormente stiamo portando anche delle innovazioni sulla produzione, ma è la cosa bella che non si riesce a capire perché dell'oca va tutto. Quindi dell'oca si mangia tutto come del maiale? Tutto, è una cosa veramente gioiosa anche da parte nostra, cioè vedere queste proposte nuove, queste innovazioni però a base l'oca, ed è una cosa veramente straordinaria questa. Ecco, raccontaci un po' la serie dei salumi. Allora abbiamo il salame. Abbiamo il salame d'oca di Mortara IGP oggi, sì, no? Che è una composizione tra carne di oca e carne di maiale, sì, e di questa se ne parlava già nel 1000. Poi abbiamo l'ecumenico, salame di pura oca della tradizione ebraica. Che questo l'hai inventato tu? No, questo qui era già tradizione, diciamo che è stata ripescata. Ecco, tu l'hai ripescato. Ripescata questo, questa ricetta straordinaria, no? Poi abbiamo, sì, ma dicevo ecumenico l'hai chiamato tu. Ecumenico, sì, sì, ecco, ecumenico. Poi abbiamo il salame crudo d'oca stagionato, che è sempre un misto. Sì. Poi abbiamo la salsiccetta d'oca fatta interamente di carne d'oca a mo' di salsiccia, che anche quella è una cosa straordinaria, che si può gustare sia fresca appena fatta che stagionata. No? E poi abbiamo il del filetto d'oca baciato, abbiamo altre due situazioni come potrebbe essere il collo d'oca ripieno, e stiamo immettendo un nuovo prodotto che abbiamo appena messo a punto, che è un collo d'oca ripieno, composizione di carne di oca, carne di maiale, fegato grasso d'oca, e questa è una situazione molto interessante. Ecco, Gioacchino, rimani con noi perché ora andiamo a San Martino di Scorzè, anzi a Rio San Martino di Scorzè in provincia di Venezia, andiamo da un ristoratore che è lo chef, Raffaele Ross. Buongiorno Ross. Buongiorno signor Paolini. Io so che voi fate un piatto molto particolare a base d'oca, ce lo vuoi raccontare? Allora, il nostro piatto, diciamo, principale in questo periodo che si consuma l'oca sarebbe l'oca fatta ai sapori autunnali, ecco, praticamente. È un po' un connubio di tutte le delicatezze che si trovano adesso sul mercato, tra, diciamo, tra le verdure, che è la zucca, la stagione delle castagne e i funghi, e vanno a finire praticamente in questo piatto che è una tradizione, diciamo. Ecco, ma Raffaele, ma mi dica una cosa, è diverso dall'oca in onto? Diciamo che prendiamo lo spunto da questa preparazione molto antica, e diciamo facciamo un connubio diciamo di cotture, in modo che facciamo, diciamo, dotiamo la cottura moderna della cottura lenta, per poi finirla, diciamo, con il grasso colato dell'oca che abbiamo recuperato con un'altra preparazione, ecco. Poi va finita, diciamo, per alcuni giorni va tenuta in macerazione, per poi essere poi consumata in molto calda, in abbinata, diciamo, con la polenta, oppure magari anche con delle altre cose, con dei tortelli di pane o con gli gnocchi di zucca e via dicendo, insomma. Bene, grazie Raffaele Ross, ristorante San Martino di Scorzè. Torniamo a Pino Masuelli a Milano. Pino, volevo chiederle, ma questo piatto che voi preparate è richiesto? Cioè la gente quando glielo proponete? Sì, io ho già parecchi anni che lo metto in carta, in stagione si intende, signor Paolini, e sta andando molto bene, perché poi le cotture, poi viene fatto con poco condimento, perché già l'oca in sé è già grassa, è un po' come la cosa della cassola, che è la casella nostra, è super mangiabile, ma non unta come era una volta. A mia mamma e mio certo. papà, insomma. Bene, grazie a Pino Masuelli della trattoria Masuelli San Marco in Milano. Torniamo a Mortara da Gioacchino Palestro. Gioacchino, non abbiamo parlato di una cosa importante, di quello che viene chiamato ficatum. Beh, quello lì è stato un colpo di follia, Davide. E, veramente è un colpo di follia per dire torniamo ai tempi dell'impero romano, perché il fegato d'oca non è nato in Francia, come dicono i francesi purtroppo, ma era un prodotto italiano, già famoso ai tempi dell'impero romano, quando queste oche venivano ingrassate a fichi secchi, ed è una cosa veramente straordinaria, ecco. Senti, è una follia, però lo facciamo, ecco. Vogliamo un po' togliere così questo dubbio? La gente pensa ancora che le oche vengano ingozzate. No, qui da noi no, assolutamente, lo escludo categoricamente. Ma in Francia succede ancora, può succedere ancora? Adesso cosa fanno onestamente i francesi? Onestamente non lo so, io so quello che facciamo noi. Ho capito. Cioè che queste oche vengono ingrassate così allo stato naturale, d'altronde è l'animale stesso predisposto a questa situazione, perché teniamo presente che l'oca è un animale ghiottissimo, lei 24 ore su 24 lei mangia, non ha problemi di dieta. Ecco, problemi di dieta, allora vogliamo dire anche che il grasso d'oca è uno dei più leggeri in assoluto, anche per cuocere? Questo è sicurissimo al 10.000%, allora per dare l'idea, e adesso anche quello, Davide, sta ritornando di moda, a fare le patate, soprattutto le patate fritte nel grasso d'oca. Ma mi fai venire fame, poi come faccio? Non posso continuare la trasmissione, perché parlando di grasso, parlando di queste cose mi vengono in mente i ciccioli d'oca caldi. Ciccioli d'oca! Non resisto più, come faccio? Quella è poesia. Va bene, aspettami Gioacchino che sto per arrivare, appena finito prendo la macchina e vengo a Mortara. Questo sarebbe una grande cosa veramente. Ciao Gioacchino, ciao, a presto. Grazie, salve a Gioacchino Palestra. Continuiamo questo giro dell'oca, che non è il gioco dell'oca, che è un bellissimo gioco, si chiamava Zogo dell'Oca, ma lo fanno ancora a Milano, poi magari andremo a vedere anche questo, cari gastronauti. Ora siamo andati un po' in giro per l'Italia, abbiamo visto Milano, Siena, San Martino di Scorzè, Mortara. Ebbene, ora andiamo in un'altra patria dell'oca, che è il Friuli. Il Friuli sicuramente ci sono così delle lunghe tradizioni su questo, e allora ne parleremo con Marina Danieli, che è titolare dell'agriturismo Scacciapensiere di Butrio. Buongiorno Marina. Buongiorno. Ma tu sei veramente appassionata d'oca? Sì, devo dire di sì, è un animale che mi piace moltissimo. E quindi lo allevi? Quindi lo allevo, sì, lo allevo non in quantità enormi, però diciamo che facciamo abbastanza oche. Ecco, l'allevamento di oche si dice che non sia molto facile, perché le oche si dice siano molto cattive, vero? A me non sono buonissime, nel senso che quando poi attaccano, anche perché l'oca non è un po' sciocchina, nel senso dove va una vanno tutte, per cui quando si sposta un'oca e ti attacca un'oca ne hai attorno 100 o quelle che ci sono nell'allevamento, insomma. Ecco, quindi tu hai trovato quello che io volevo chiedere, perché si dice sei come un'oca e tu l'hai già detto, perché sono sciocchine, dove va una vanno tutte, quindi se una va nel pericolo vanno tutte nel pericolo. Devo dire che sono veramente così, è incredibile, soprattutto poi quando arrivano piccoline, perché chiaramente noi non le facciamo nascere ma le compriamo, e arrivano piccoline, c'è un capo branco e poi vedi questo mare di occhette che si sposta dietro la prima. Quindi tutte vanno appunto dietro chi diventa il leader. Rimani con noi perché continueremo il discorso. Ora andiamo a Milano perché ho citato prima Zogo dell'Oca, e a Milano esiste ancora il Zogo dell'Oca, e abbiamo con noi Silvestro Zecchinato, che è vicepresidente della Proloco locale, al quale chiediamo quando c'è questa festa dell'Oca e cos'è. Caro Paolini, buongiorno. Buongiorno. Siamo a Milano, allora questo gioco dell'oca è in corso oggi e domani, come già abbiamo detto. Scusami per la voce, ma noi per organizzare questa cosa lavoriamo giorno e notte, perciò è uno stress anche per noi. La chiamiamo la fiera dell'oca, che sarebbe l'ocaria, dove che ci sono tutte le bancarelle anni 900 esposti tutti i prodotti a base d'oca, la parte tutta gastronomica ed i gadget, proprio solo fatti da noi esclusivamente per questo gioco. Poi invece andiamo alla domenica, però possiamo fare una premessa, che poi sabato sera c'è anche la missa oca, che è una bellissima cosa. Ma è un po' sciocchina la missa oca? Va bene, io diremmo che l'oca, sì, è un po', come si dice, non è maliziosa, voglio dire, l'oca appartiene a un sistema di vita che dove va una vanno tutte le altre, però poi ha sempre un capo branco che le va dietro. Certo. Vuol dire, però... Sai, è un animale che è simpatico, è un animale carino. Bene, bene, continua a rimanere con noi, Zecchinato, che ora torniamo a Butrio. Marina Danieli, volevo sapere, dunque, queste oche finiscono nella tavola oppure no? Sì, devo dire sì, finiscono nella tavola. Facciamo l'oca nel modo più tradizionale, più semplice che ci possa essere. L'oca intera, l'oca arrosto, l'oca in umido in Friuli, dalla mia nonna, poi che era dalla quale io ho imparato molte cose, si usava l'oca, ma in modo molto, non vengono qui, almeno nella nostra zona di Butrio, non facciamo fegati o patè o cose o foie gras, usiamo l'oca proprio intera, l'oca come bestia, non come fegato. Quindi l'oca arrosto? L'oca arrosto. Ecco, l'oca arrosto, con quale vino friulano diciamo va abbinata? Ma io lo abbino volentieri con un refosco o con uno schioppettino, con vini che siano abbastanza aciduli, che mi puliscano bene la bocca. Quindi diciamo se vini friulani è giusto l'accoppiamento, quindi tra l'oca e i vini friulani? Secondo me sì. Ecco, tu hai detto prima, giustamente, non vengono così utilizzati fegati o d'altro, ma io ho con noi ora, sempre friulano, Bruno Pessot dell'azienda Yolanda De Colò di Palmanova. Buongiorno Pessot. Buongiorno Davide. Ci pensa lui coi fegati e tutto, vero? Vero? Qualche fegato lo usiamo. Ecco, qual è? Ci racconta un po' la produzione, cioè i salumi che si possono, i prodotti che si possono così ottenere dall'Oca, che voi avete e che voi distribuite in Italia e all'estero? Noi produciamo oltre 50 prodotti a base di carne e una ventina a base di fegato, dal salume più classico che è un salume d'oca, ricetta ebraica, fatto utilizzando il petto d'oca tratto a punta di coltello, insaccato nel collo e poi stagionato, al salame della bassa friulana che prevede l'impiego di carne d'oca e carne di maiale in uguale misura, con 3-4 mesi di stagionatura, al prosciutto cotto d'oca, la porca l'oca, che è un salume cotto con l'impiego sempre di carne di oca e di maiale. Si chiama porco l'oca. Porca l'oca. Porca l'oca. Bene. Dal connubio tra l'impiego dell'uso dell'oca e del maiale. Benissimo, bellissimo nome, devo dire, complimenti. La ringrazio. Ai prosciuttini crudi d'oca, venivano fatti già a San Daniele nel 1400 dalla famiglia Gentilli, quindi in epoche molto remote, allo speck d'oca, che rievoca il nome del cugino maggiore di maiale, lo ricorda unicamente per la forma della setta con la carne e con il grasso e per una affumicatura abbastanza accentuata, però viene fatto con il petto, al più classico dei classici, che è il petto d'oca affumicato in rotolo, che forse è il prodotto d'oca più conosciuto in Italia, fino poi ad arrivare anche a impieghi del fegato grasso, che si possono fare da crudi a cotti. Pochi attimi fa immerso in una degustazione, ho appena mangiato un fegato crudo affumicato abbinato con delle pere caramellate insieme ad un'ottima ribolla spumatizzata. Beato lei, tutti questi piatti mi fanno venire fame. Grazie a Bruno Pessot. Ma torniamo a Milano, vogliamo sapere cosa succede velocemente la domenica. Allora, la domani, domenica quindi. Succede questo, che alle ore circa 12 ci sarà la cucagnata, perché la partenza, che poi sarà alle 15, si prenderà con il numero andando sulla cucagna e lì si prenderà il numero per la pole position, per la partenza. Poi alle 15 ci sarà la grande sfilata di tutti i costumi, perciò la presentazione delle squadre e comincerà il grande gioco attorno a questo ovale della piazza che è 130 metri, su un gioco grande così, con tutto un pubblico su tribune coperte di tutto seduto, assisterà a questo gioco che è composto da 6 squadre che sono le frazioni più Mirano. Okay. Perciò durerà 90 minuti. Chi arriverà per primo buttando i dadi continuamente, che poi ci saranno vari giochi, spareggio, cose così, chi arriverà per primo al 63, la casella 63, vincerà l'Oca dell'anno e andrà a finire sull'Albo d'Oro, che ormai questa è la 12ª edizione. Bene, grazie a Silvestro Zecchinato, festa dell'Oca a Mirano, oggi e domani. Bene, ecco, torniamo da Marina Daniele, torniamo all'agriturismo. Volevo chiedere, Marina, l'Oca, cioè il tuo agriturismo, è ancora richiesta a tavola? Sì, devo dire che è ancora richiesta, anche perché non è una cosa un po' che la gente non mangia tutti i giorni, è un po' ormai difficile trovarla quotidianamente o comunque nelle famiglie, e quindi crea curiosità. Sì, crea curiosità, secondo me anche così, è una novità in fondo, perché molti probabilmente non l'hanno mai assaggiata, e quindi è un modo anche per trovare un piatto nuovo. Esiste qualche ricetta particolare friulana, appunto, che riguarda l'oca, ma non come salume, appunto l'oca in tavola? L'oca in tavola, ad esempio, Cosetti, Tolmezzo. Il mitico Cosetti, di cui c'è una mostra Cosetti, itinerante, sì. Esatto. Re della cucina carnica, diciamolo. Esatto, faceva una meravigliosa oca lessa con una mostarda di rosa selvatica, di quello che in friulano viene detto picecui, rosa selvatica, è una mostarda molto sapida, molto saporita, ed era una cosa eccezionale. Quindi una mostarda, oca con mostarda, sì. Perché sgrassa probabilmente. Perché sgrassa, forse, esatto. Forse anche questo. Senti, esatto. Che tu sappia, dessert a base di oca non esistono. Non credo. Anche se dell'oca si mangia tutto e si usa tutto, però sì. Dessert non siamo, forse solo a forma di oca. Beh, abbiamo saputo che alle logge di Siena il 25 comunque ci sarà un dessert a base di oca, sì. Ci sarà a base di foie gras, quindi sicuramente anche, cioè, avremo un menù completo, quindi probabilmente sì. È proprio vero che dell'oca non si butta via niente e si mangia tutto e anche tavola. Grazie anche a Marina Danieli dell'agriturismo Scacciapensieri di Butrio, provincia di Udine. Come vedete abbiamo scoperto qua e là che esiste ancora questa tradizione, addirittura si fanno anche pranzi completi, compreso il dessert. Prima abbiamo parlato dell'oca in onto e voglio così sottolineare che di questo piatto addirittura esiste un disciplinare di produzione, ovviamente in Veneto, nelle province di Treviso, Vicenza, Padova e Verona. Quindi un disciplinare in cui veramente si spiega tutto, si spiegano le razze delle oche, si spiega come viene preparato, come viene servito, insomma un disciplinare vero e proprio per chi tiene così alla tradizione e questa tipologia di piatti. Ma abbiamo parlato anche di un'altra cosa con il nostro amico Gioacchino Palestro di Mortara, a proposito dei prodotti. Abbiamo parlato di ciccioli, abbiamo parlato di ciccioli d'oca, e io così mi sono lasciato andare perché veramente sono goloso di questi ciccioli, specialmente caldi, che non è facile trovarli caldi. Ebbene, c'è qualcuno che ha ben pensato di fare un qualcosa con questi ciccioli d'oca, ed è un panificatore di Garlasco, in provincia di Pavia, è il signor Cesare Guardamagna. Buongiorno Guardamagna. Buongiorno signor Paolini, buongiorno. Allora, ci racconta cosa fa lei con i ciccioli d'oca? Certo, allora innanzitutto va bene, premetto che con i ciccioli d'oca faccio questo tipo qua di pane e anche di focaccia. E, diciamo, ho ripreso una vecchia ricetta che utilizzava mio padre, che mi ricordavo che da piccolo, insomma, vedevo queste signore qua, queste donne qua, che portavano i ciccioli d'oca a mio padre perché appunto gli facesse il pane. Poi, insomma, la tradizione si è un po' persa perché col passare degli anni, insomma, il benessere così. E poi negli ultimi 5 anni ho avuto modo di incontrare appunto il palestro, e così mi ha proposto di riproporre ancora questo pane e la focaccia con i ciccioli. Niente, effettivamente ha avuto un grande successo, nel senso che, riprendendo questa, appunto, come ho detto, questa vecchia tradizione, utilizzo della pasta da pane, alla quale aggiungo una percentuale di ciccioli d'oca tagliati a pezzettini, e poi, diciamo, gli do una lievitazione, lo metto in cottura e poi lo propongo ai miei clienti in negozio. E la cosa è piaciuta. Bene, confesso di averle assaggiate anch'io. Grazie a Cesare Guardamagna, grazie, lo ripeto, un panificio di Garlasco in provincia di Pavia. Bene, abbiamo con noi ora Valeria Pesaro, che è autrice del libro La cucina ebraica di casa nostra. E visto che abbiamo parlato molto di enclave ebraiche dove si è sviluppato la lavorazione dell'oca, la cucina dell'oca, io con lei volevo appunto approfondire questo argomento, visto che lei ha scritto un libro che è La cucina ebraica di casa nostra, di capire se non solo i salumi, poi magari parleremo anche del salame d'oca, ma se anche nelle ricette quotidiane o anche della festa, l'oca compare spesso. Buongiorno Valeria Pesaro. Buongiorno a lei, dottor Paolini. Le chiedevo appunto se ci sono anche molte ricette a base di oca nella cucina ebraica. Sì, abbastanza. La cosa più importante sono i salumi che noi utilizziamo durante la festa della nostra Pasqua, che cade tra marzo e aprile. Sono però salumi che noi prepariamo nel mese di dicembre, perché l'oca va lavorata quando c'è molto freddo. Infatti io ancora lavoro l'oca con le finestre spalancate, magari una sciarpa al collo. Ecco, il grasso d'oca invece entra nella cucina anche del quotidiano. Per esempio il riso giallo del sabato, che è un riso freddo, io lo faccio ancora, invece dell'olio uso due cucchiai di grasso d'oca. Ecco, poi noi facciamo anche le brise, che sono i pezzettini d'oca che restano quando l'oca è stata conciata completamente per i salumi, e sono tutti i pezzettini di carne che vengono cotti dopo aver sciolto dei pannicoli di grasso con due spicchi d'aglio, si mettono i pezzetti di questi, diciamo, piccoli pezzettini di carne, e devono cuocere circa 2 ore, in modo tale che la carne si ammorbidisca completamente, e si servono su un letto di polenta. Senta Valeria, diciamo che l'oca arrosto non è nella tradizione. No, non particolarmente, no. Dell'oca proprio noi l'abbiamo sempre utilizzata, diciamo, per noi l'oca è un po' come, l'Artusi diceva che l'oca è il maiale degli ebrei, quindi facciamo salumi e grasso d'oca, non la cuociamo in particolare proprio come volatile, certo, come si può fare col tacchino, col pollo. Ecco, è stata sostituita nel tempo, l'oca dopo la metà del Settecento è stata sostituita dal tacchino. Allora col tacchino ovviamente si fanno, certo, tacchino al forno, eccetera eccetera, ma l'oca resta ancora un po' relegata per quello che riguarda i salumi. Perfetto, visto che ha parlato di salumi, noi abbiamo in linea Fabio Boggiani, che è segretario del Consorzio Tutela Salame d'Oca di Mortara. Buongiorno Boggiani. Buongiorno dottore. Senta, ha avuto un grande successo questo salame d'oca di Mortara, se non erro negli ultimi anni. Devo dire proprio di sì, insomma, dal 2004, da quando il salame d'oca di Mortara ha ottenuto il riconoscimento IGP, ha avuto proprio un salto di qualità. Insomma, il nostro prodotto è un prodotto che si è sviluppato, certo, e quindi le vendite del prodotto sono notevolmente incrementate. Ecco, quanti produttori ci sono a Mortara di salame d'oca? Allora, aderenti al nostro consorzio ci sono attualmente 6 produttori, di cui 4 a Mortara e 2 a Vigevano, perché comunque il territorio comprende tutta la Lomellina. Quindi diciamo che ormai è un fatto importante per il vostro territorio. Sicuramente sì. Voi, se non erro, fate anche una festa abbastanza importante che attira molta gente. Direi proprio di sì, tutti gli anni è l'ultima domenica di settembre, e quest'anno siamo giunti alla 43esima edizione, si tiene a Mortara la sagra del salame d'oca, e quindi tutta la manifestazione che viene organizzata dal comitato organizzatore, che fa parte appunto dell'Associazione Commercianti di Mortara, e appunto viene organizzata questa sagra che fa leva comunque in particolar modo sul prodotto, ma che ha anche il suo lato folcloristico, diciamo, sfilata storica delle sette contrade mortaresi, la corte di Ludovico il Moro e Beatrice d'Este, e che viene appunto culminata con il gioco dell'Oca, con la disputa del palio del gioco dell'Oca che si tiene in piazza Monsignor Dughera a Mortara. Senta, un'ultima cosa le volevo chiedere, visto che esiste un disciplinare, ovviamente siete un IGP come prodotto, sì. La carne deve essere 100% Oca? Assolutamente no. Allora, i tagli di carne che devono essere impiegati per il salame d'oca di Mortara sono così composti: il 30-35% dalle parti magre dell'oca, 30-35% dalle parti magre del suino e il 30-35% dalle parti grasse del suino. La lavorazione di queste carni, insaccata nella pelle dell'oca e una volta cotto, viene poi immesso al consumo. Bene, allora abbiamo concluso questo giro dell'Oca, io vi do appuntamento domani alle 10 per la replica di questa trasmissione e poi alle 12.15 con il Wine Bar del Gastronauta e ogni giorno alle 18.30 con la pillola del Gastronauta. Buon weekend da Davide Paolini.